Eric Berne si è interessato di esaminare le decisioni negative, cioè disfunzionali, che noi abbiamo preso, ma noi prendiamo anche tante sane, eh? Però consideriamo che uno, appunto, da ragazzino, bambino, per una serie di esperienze che ha avuto, o anche una sola esperienza traumatica, si accorge che non può fidarsi del papà. Perché papà in qualche modo dal suo punto di vista lo ha tradito, lo tradisce. Allora i bambini sono bravissimi a generalizzare, per cui papà, beh, se non mi posso fidare di lui, di chi vuoi che mi possa fidare al mondo? Non mi fido delle persone. Ma chi? Tutte? Sì, certo, tutte, scusa. Voglio dire, se mi tradisce lui, gli altri. E allora il bambino va nel mondo con la decisione presa, non mi fiderò mai più di nessuno. E di solito ci aggiunge l'altra, beh, allora farò tutto da solo. Queste sono decisioni disfunzionali. Bene. Ok, adesso facciamo un passo indietro sull'analisi transazionale, che normalmente viene chiamata AT, e quindi Eric Berne ci parla del copione, questo copione che noi ci siamo scritti, ci siamo costruiti attivamente, scegliendolo come reazione a messaggi ricevuti, esperienze fatte, capite? Poi distinguiamo gli altri messaggi. Questo copione è noi l'abbiamo costruito è in tanti modi. Per esempio, c'è qualcuno di voi che da ragazzino è rimasto colpito da una favola e da un personaggio, da una storia, da un personaggio di una storia? È possibile che noi riusciamo a recuperare un pezzo del nostro copione di vita quando ci viene in mente un personaggio col quale ci siamo identificati. Eventualmente andiamo a verificare cosa c'è di buono e cosa c'è da rivedere di quel personaggio. Poi andiamo invece ai genitori. Sì. Questo è anche un personaggio assolutamente inventato. Sì, certo. Cioè, non Te c'è lo sei una storia. inventato tu. Certo, quello che interessa è che se ti ha colpito tu hai fatto una forma di identificazione, te la sei raccontata tante volte e così, e quindi è diventato. Allora, noi ci costruiamo il nostro copione di vita attivamente. Questo copione delle volte lo viviamo, lo manifestiamo di più, lo viviamo di più quando, specialmente quando siamo sotto stress, torna a galla. E in realtà dovrebbe anche avere una sua flessibilità dentro, capite? Stiamo semplificando tanto, una cosa che è complessa. Tende ad autoconfermarsi. Quindi noi tendiamo nella vita a fare una serie di scelte che ci portano a confermare il nostro copione, specialmente perché serve l'analisi transazionale, perché ci aiuta a diventare consapevoli. Qual è lo scopo? È di diventare consapevoli per sciogliere queste cose. Tante volte basta solo essere consapevoli, già si sciolgono. Altre volte, lo si sa, ci si fa più la cosa è a livello profondo emozionale, più ci vogliono dei lavori altrettanto profondi emozionali. Emozionale, ognuno di noi è fatto di tre parti. Una parte interna, improntata, genitore, una parte adulta e una parte bambina. Qualsiasi persona dopo i 6 anni, maschio, femmina, donna, ha dentro queste tre parti, secondo il modello dell'analisi transazionale. Secondo il modello della PNL invece non abbiamo tante. Enrico Berne ci dice che le persone hanno tre parti, una parte genitoriale, una parte adulta e una parte bambina. Si vede quando una persona è da genitore. Perché in genere o è un genitore normativo, beh, smette di fumare, beh, fare questa cosa qua. E quindi lo vedete nell'atteggiamento del corpo, fa così, cioè fa così, senti la voce, no? Oppure può essere nel genitore affettivo, ma comunque il genitore di per sé in questo modello è quello che dà delle spinte, come vengono chiamate qua, cioè dà degli ordini. Per cui anche il genitore affettivo magari dice dai, va anche a lavare le maniche così mangiamo. Te lo dice in modo affettivo, ma comunque ti sta dando. Oppure, non so, torni a casa dall'esame e dici mi ha andato male l'esame, non l'ho passato. E vabbè dai, non te la prendere, tipo complessivo, insomma. Però è sempre in posizione genitoriale. E la cosa interessante è che quando noi abbiamo una relazione con una persona che non è un nostro genitore, magari in ufficio, non so, arrivo 5 minuti in ritardo, entro dentro e la mia collega mi dice: ecco perché sei arrivata in ritardo. Allora lei in quel momento sta facendo la parte di genitore normativo, e la cosa incredibile è che è facile che per me è come un elastico e io tendo a rispondere dal bambino, dalla posizione del bambino, o il bambino che si scusa, ma no, ma sai perché, o il bambino sveglio, ma sai perché, ma sono proprio dei ganci incredibili. Va bene, una parola sull'adulto. L'adulto è quello che non è emozionale, è quello delle istruzioni per l'uso, per cui quando aprite il bugiardino dentro la medicina vi dice: dunque, posologia, dunque per questo, questo, questo, poi devi prendere tot così e così così, la mattina, la sera, e questa è la mentalità dell'adulto in questo modello. Mentre il bambino invece è quello emozionale, che delle volte non parla ma agisce. Per esempio, nell'esempio del fumo, di solito il bambino non risponde, risponde mandando l'impulso ad accendersi un'altra sigaretta, o l'emozione o l'impulso. Va bene, allora vediamo un po' perché ci interessa tutta questa chiacchierata nel copione. Perché noi da bambini riceviamo messaggi specialmente dal genitore del genitore e dal bambino del genitore. Interessante, questo? Per chi non conosce l'analisi transazionale, già, però. Allora, i messaggi che ci manda il genitore, la parte genitoriale del genitore, sono più evidenti, è quello che vi ho detto adesso, no? E quindi sii buono, sii obbediente, non dire bugie, comportati bene, tutte queste cose qua. E vengono dette spinte, vengono espresse verbalmente, sono chiare, sono permesse nella nostra società, nella nostra cultura, anzi sono sollecitate. Per esempio i genitori, chi di voi genitori si sarà sentito delle volte in condizione sui figli fanno qualcosa che non sai bene come reagire, ma ti senti in dovere di educarli. E allora dici: cacchio, come me la gestisco questa parte? Cosa gli dico? Cosa non gli dico? Perché senti il dovere di educarli. Quindi è il genitore nel genitore che sta cercando quale spinta dargli, quale messaggio dargli. Quindi è molto forte questa cosa. Quindi, dal genitore nel genitore vengono fuori le spinte. E le spinte qui nell'analisi transazionale aprono una parentesi che io chiuderò, spero, prestissimo, e ci dice che le spinte dell'analisi transazionale sono principalmente di 5 tipi, di 5 grandi categorie. Una categoria pesante è sì perfetto, poi sì forte, questa qui è molto carina, un'altra carina, compiaci. Cioè, tu devi piacere alle persone, dal fatto che devi salutare quando le incontri, col sorriso, devi essere gentile, devi essere sempre sorridente, devi piacere alle persone. Soddisfa i loro bisogni. Soddisfa i loro bisogni, certo, datti da fare per accontentare, cerca di prevenire i loro bisogni. Poi ce ne sono altre due, queste qui sono quelle più importanti. Le altre due sono: sforzati, interessante, perché non è che ti dice che tu devi riuscire, dice solo che devi fare fatica. Questi sono i messaggi che i genitori possono dare, poi il figlio ne riceverà magari uno dal padre, uno diverso dalla madre, poi ci sono le ingiunzioni di cui adesso parliamo, e via di seguito, ed esce fuori un putpurri, per cui poi pof, viene fuori il ragazzino che è lui, proprio lui, fatto così, inconfondibile.